Non è di maggio questa impura aria, che il buio giardino straniero fa ancora più buio, o la baia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace disamorata come i nostri destini tra le vecchie muraglie l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio fradicio e infecondo. Tu, giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quantomeno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto, e noi morti ugualmente con te nell'umido giardino, questo silenzio. Non puoi, lo vedi? Che riposare in questo sito, estraneo, ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno e sbiadito solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio, sopito nel vespro, tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi dove, cantando vizioso, un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove. Tra i due mondi, la tregua, in cui non siamo. Scelte, dedizioni, altro suono non hanno ormai che questo del giardino gramo e nobile, in cui caparbio l'inganno che attutiva la vita resta nella morte. Nei cerchi dei sarcofaghi non fanno che mostrare la superstite sorte di gente laica le laiche iscrizioni, in queste grigie pietre corte e imponenti. Ancora di passioni sfrenate, senza scandalo sonarse le ossa dei miliardari di nazioni più grandi, ronzano, quasi mai scomparse, le ironie dei principi, dei pederasti, i cui corpi son nell'urne sparse, inceneriti e non ancora casti. Qui il silenzio della morte è fede di un civile silenzio di uomini rimasti uomini, di un tedio che nel tedio del parco discreto muta. E la città, che indifferente lo confina in mezzo a tuguri e a chiese, empia nella pietà, vi perde il suo splendore. La sua terra grassa di ortiche e legumi dà questi magri cipressi, questa nera umidità che chiazza i muri intorno a smorti ghirigori di bosso, che la sera, rasserenando, spegne in disadorni sentori d'alga. Questa erbetta stenta e inodora, dove violetta si sprofonda l'atmosfera con un brivido di menta o fieno marcio, e quieta vi prelude con diurna malinconia la spenta trepidazione della notte. Rude di clima, dolcissimo di storia, è tra questi muri il suolo in cui trasuda altro suolo, quest'umido che ricorda altro umido, e risuonano, familiari da latitudini e orizzonti, dove inglesi e selve coronano laghi spersi nel cielo, tra praterie verdi come fosforici biliardi o come smeraldi, and are ye fountains, le pie invocazioni. uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo ai partigiani, e presso l'urna, sul terreno cereo, diversamente rossi due gerani. Lì tu stai, bandito, e con dura eleganza non cattolica, elencato tra i strani morti, le ceneri di Gramsci. Tra speranza e vecchia sfiducia ti accosto, capitato per caso in questa magra serra innanzi alla tua tomba, al tuo spirito restato qua giù tra questi liberi. O è qualcosa di diverso, forse di più estasiato e anche di più umile, ebra simbiosi d'adolescente di sesso con morte. E da questo paese in cui non ebbe posa la tua tensione, sento quale torto qui nella quiete delle tombe, e insieme quale ragione nell'inquiete sorte nostra, tu avessi stilando le supreme pagine nei giorni del tuo assassinio. Ecco qui, ad attestare il seme non ancora disperso dell'antico dominio, questi morti, attaccati a un possesso che affonda nei secoli il suo abominio e la sua grandezza, e insieme ossesso quel vibrare d'incudini in sordina, soffocato e accorante dal dimesso rione, ad attestarne la fine. Ed ecco qui me stesso, povero, vestito dei panni che i poveri adocchiano in vetrine dal rozzo splendore, e che ha smarrito la sporcizia delle più sperdute strade, delle panche dei tram da cui stranito è il mio giorno, mentre sempre più rade ho di queste vacanze nel tormento di mantenermi in vita. E se mi accade di amare il mondo, non è che per violento e ingenuo amore sensuale, così come, confuso adolescente, un tempo lo odiai, se in esso mi feriva il male borghese di me borghese. E ora, scisso con te, il mondo oggetto non appare di rancore e quasi di mistico disprezzo la parte che ne ha il potere. Eppure senza il tuo rigore sussisto, perché non scelgo. Vivo nel non volere del tramontato dopoguerra, amando il mondo che odio nella sua miseria, sprezzante e perso per un oscuro scandalo della coscienza, lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore in luce, contro te nelle buie viscere del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra d'azione, mi so adesso attaccato nel calore degli istinti, dell'estetica passione, attratto da una vita proletaria a te anteriore. È per me religione la sua allegria, non la milionaria sua lotta, la sua natura, non la sua coscienza. È la forza originaria dell'uomo che nell'atto si è perduta a darle l'ebbrezza della nostalgia, una luce poetica. E altro più, io non so dirne che non sia giusto, ma non sincero, astratto amore, non accorante simpatia. Come i poveri, povero, mi attacco come loro a umilianti speranze, come loro per vivere mi batto ogni giorno. Ma nella desolante mia condizione di diseredato, io possiedo, ed è il più esaltante dei possessi borghesi, lo stato più assoluto. Ma come io possiedo la storia, essa mi possiede, ne sono illuminato. Ma a che serve la luce? e vola. Me ne vado. Ti lascio nella sera che, benché triste, così dolce scende per noi viventi, con la luce cerea che al quartiere in penombra si rapprende e lo sommuove, lo fa più grande, vuoto intorno, e più lontano lo riaccende di una vita smaniosa che del roco rotolio dei tram, dei gridi umani dialettali, fa un concerto fioco e assoluto. E senti come in quei lontani esseri che in vita gridano, ridono, in quei loro veicoli, in quei grami caseggiati dove si consuma l'infido ed espansivo dono dell'esistenza, quella vita non è che un brivido, corporea, collettiva presenza. Senti il mancare di ogni religione vera, non vita ma sopravvivenza, forse più lieta della vita, come d'un popolo d'animali nel cui arcano orgasmo non ci sia altra passione che per l'operare quotidiano, l'umile fervore cui dà senso di festa l'umile corruzione. Quanto più è vano, in questo vuoto della storia, in questa ronzante pausa in cui la vita tace ogni ideale, meglio è manifesta la stupenda, adusta sensualità quasi alessandrina che tutto minia e impuramente accende, quando qua nel mondo qualcosa crolla e si trascina il mondo, rientrando in vuote piazze, in scorate officine. Già si accendono i lumi, costellando via Zabaglia, via Franklin, l'intero testaccio, disadorno tra il suo grande lurido monte, i lungoteveri, il nero fondale, oltre il fiume che Monteverde ammassa o sfuma invisibile sul cielo. Diademi di lumi che si perdono smaglianti e freddi di tristezza quasi marina. Manca poco alla cena. Brillano i rari autobus del quartiere con grappoli d'operai agli sportelli, e gruppi di militari vanno senza fretta verso il monte che cela in mezzo a sterri fradici e a mucchi secchi di immondizia nell'ombra rintanate zoccolette che aspettano irose sopra la sporcizia afrodisiaca. E non lontano, tra casette abusive ai margini del monte o in mezzo a palazzi quasi a mondi, dei ragazzi leggeri come stracci giocano alla brezza non più fredda, primaverile, ardenti di sventatezza giovanile, la romanesca loro sera di maggio. Scuri adolescenti fischiano per i marciapiedi nella festa vespertina e scrosciano le saracinesche dei garage di schianto gioiosamente, se il buio ha reso serena la sera. E in mezzo ai platani di piazza Testaccio, il vento che cade in tremiti di bufera è ben dolce, benché, radendo i capellacci e i tufi del macello, si imbeva di sangue marcio e per ogni dove agiti rifiuti e odore di miseria. È un brusio la vita, e questi, persi in essa, la perdono serenamente se il cuore ne hanno pieno. A godersi, eccoli, miseri la sera, e potente in essi, inermi, per essi, il mito rinasce. Ma io, con il cuore cosciente di chi soltanto nella storia ha vita, potrò mai più con pura passione operare, se so che la nostra storia è finita? Nere, dove se stava mucchiati nelle celle e se sperava di tornare a vedere la luce della vita e delle stelle. Poi quando andavi all'interrogatorio la bocca se seccava dal terrore, defini dritto, dritto all'obitorio, ma infine liberato da giovani andavamo alla scoperta dell'ideale della libertà. Sedici ottobre, per ghetto rastrellato, poi via Rasella, la strage alle Ardeatine, per Monnoce pareva sconquassato, non se credeva ad arriva alla fine. Ma se lottava come un uomo solo, insieme